Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata dal gastronauta. Ebbene, questa mattina, in luogo di una trasmissione di gusto, di profumi, di piaceri, parleremo di qualcosa di completamente diverso, ma l'abbiamo già fatto anche in passato. Io credo che quando si parla di cibo bisogna vedere tutti gli aspetti della medaglia, anche quelli meno piacevoli, a cominciare dalla diossina, a cominciare da problemi che riguardano il latte crudo e a tanti altri. Quindi, diciamo, agli aspetti pericolosi di quello che mangiamo o ritenuti tali da alcuni e da altri magari no. E allora io voglio cominciare questa trasmissione innanzitutto dando il numero verde per chi volesse intervenire, 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, buongiorno al colonnello Antonio Amoroso, vicecomandante del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute. Credo ci tengo a sottolineare la definizione diciamo di questo reparto importante, perché è conosciuto come NAS, però so che ci tengono a definirsi tutelatori della salute. Buongiorno colonnello. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Volevo chiederle questo, visto che sempre di più diciamo siamo di fronte a dei casi molto particolari, ultimo delle carni suine irlandesi, però ogni volta la riflessione che io faccio è questa, che tutti i problemi ci provengono da altri paesi. Questo significa che diciamo dobbiamo stare molto attenti, voi dovete stare molto attenti a un livello di prevenzione di ciò che arriva dall'estero e molto meno da quello che viene prodotto nel nostro paese? Un paio di riflessioni. Va detto che il prodotto agroalimentare italiano è riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità, per cui è impensabile rivolgersi a prodotti provenienti da paesi stranieri. Poi va fatta una seconda considerazione, la differenza tra paesi comunitari e paesi extracomunitari. Siamo inseriti a pieno titolo in un sistema integrato di controllo, di cui per quanto riguarda l'Italia ne fa parte il Ministero della Salute, che attiva o viene attivato in caso di allerta o allarme di situazioni di contaminazioni dei cibi. Ecco, quest'ultimo caso delle carni suine irlandesi, che tutto sommato sembra che ci abbia riguardato come paese per poche cose, cioè poche importazioni, ma siete stati molto rapidi, almeno a leggere i giornali, appunto nel scovare tutto quello che era stato esportato. Ma lei pensa che quello che abbiamo mangiato magari precedentemente delle carni suine irlandesi, magari quando non c'era questo allarme, possa essere stato contaminato? No, ecco, le dico questo, ci siamo ovviamente affinati e organizzati, abbiamo uno strumento reattivo pronto, costantemente capace di intervenire in un breve volgere temporale. Per quanto riguarda il caso di Ossina, i primi segnali, le prime indicazioni ci pervengono domenica 7 e ci si danno delle indicazioni specifiche circa i segmenti temporali, quindi le carni importate dallo scorso settembre e riguardo le carni suine. Il 7 era domenica, l'8 era un giorno festivo, noi comunque avevamo già delle pattuglie attive che sono state integrate prontamente per letteralmente dragare tutti gli esercizi aperti, i grandi esercizi, i grandi punti di distribuzione aperti in occasione delle festività natalizie, per poi arrivare al giorno successivo e individuare su indicazioni anche del Ministero del Welfare, individuare le piattaforme di importazione della grande distribuzione dove si sono poi verificati e sono avvenuti i sequestri di oltre 200 tonnellate di carne. Quindi 200 tonnellate di carne, beh, sono un bel quantitativo, insomma. È un quantitativo considerevole, siamo risaliti nella filiera di distribuzione, sia verso i grossisti, sia verso in discesa verso i centri di distribuzione e di vendita al pubblico. Lei esclude che possano essere finiti nella lavorazione di salumi, prosciutti, salami, cotechini o d'altro? No, non lo escludo, ma noi abbiamo esteso i controlli e quindi sequestri anche ai derivati, alle carni lavorate. Abbiamo sottratto dai circuiti commerciali sia la carne suina ma anche i derivati. Abbiamo sequestrato quindi anche ciò che con la carne suina si produce. Quindi si può essere tranquilli? Al momento assolutamente. E peraltro ci conforta anche l'assoluta mancanza di complicanze su soggetti, ma ciò non toglie che è giusto che ci sia una immediatezza, una sensibilità che peraltro posso garantirle diffusa e sempre in crescente maturazione da parte dell'utente cittadino. Bene, io la ringrazio per la sua chiarezza e disponibilità. Grazie al colonnello Amoroso. Arrivederci. Continuiamo a parlare appunto di questo grosso problema e ora andiamo a Teramo, andiamo dal professor Vincenzo Caporale, direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Buongiorno professor Caporale. Buongiorno. Io lei vorrei chiedere questo, ma com'è possibile, cioè, che ogni volta che saltano fuori questi grossi problemi sia sempre la diossina all'ordine del giorno? Per la verità non è proprio esattamente così. Credo che quello che viene fuori è che la diossina in qualche modo attrae molto l'informazione e quindi sulla diossina ogni singolo caso, ogni singolo evento viene messo in evidenza, spesso e volentieri anche perché poi intorno alla diossina c'è tutta la vicenda, diciamo così, di carattere ambientale che spesso e volentieri porta a elementi di carattere emozionale. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di diossina, di carne suina irlandesi, di latte crudo, ma prima di tornare al professor Caporale abbiamo già molti radioascoltatori in linea. Sentiamo Giancarlo da Venezia. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno dottor Paolini, grazie per aiutarci a scoprire le meraviglie della nostra produzione agricola italiana, prima di tutto. Poi io volevo semplicemente segnalare un fatto di questo tipo. Io ho fatto un'osservazione, sono un po' voce fuori dal coro. Benissimo, abbiamo bloccato la carne irlandese, sembra da notizie di stampa che sia dovuto a un fatto relativo a una contaminazione durante la lavorazione, però io dico, secondo me dovremmo prestare, proprio per l'altissima qualità della nostra produzione, maggiore attenzione in Italia alle produzioni, perché i recenti scandali non è che ci mettano, che ci diano o ci mettano una medaglia per quella che è la qualità del nostro prodotto, cioè ci sono in mezzo una marea di lazzaroni che rovinano queste cose, quindi io mi piacerebbe sentire una maggiore attenzione e una maggiore intensità di controlli. Quando io leggo 8.000 controlli all'anno, a me sembrano pochissimi, mi scusi se glielo dico, pochissimi mi sembrano, 8.000 controlli all'anno, sì, fa da ridere. Io sono un chimico e per anni mi sono interessato di controlli qualità. Io, una piccola azienda, facevamo 16.000 controlli all'anno, si rende conto? Bene, grazie Giancarlo del suo intervento che può dare adito così a discussione, perché ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Sentiamo Agnese dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Agnese. Buongiorno Davide Paolini, complimenti sempre per la vostra radio in blocco, non solo per la sua. Grazie. Buongiorno, senta, io sto parlando a nome di mio marito che attualmente non è in casa. Lui è ora in pensione, ma un dipendente dell'URSS veterinario, dirigente del servizio veterinario. Ogni volta che succedeva qualcosa, mucca pazza e malattie dei polli eccetera, lui tornava a casa con l'enorme frustrazione sua e dei colleghi che apparisse solo l'opera del NAS. Cioè, come se noi italiani non ci rendessimo conto dell'opera costante e continua che fa il servizio veterinario. Ecco, volevo far presente questo. Ora l'ascoltatore prima di me ha parlato dei controlli. Ecco, questo secondo me è qualcosa che dovrebbe essere amplificato come opinione pubblica. Benissimo, grazie anche di questo suo suggerimento, grazie. E torniamo al professor Caporale. Professor Caporale, mi sembra di capire che lei dice, cioè si dà molta importanza alla diossina per il passato storico della diossina, per i problemi della diossina, e magari non si dà molta attenzione ad altro, è questo il suo pensiero? No, il mio pensiero è che secondo me alla diossina si dà tanta attenzione quanto alle altre cose, salvo che per molte cose, come dire, non c'è l'attenzione dei media e quindi non viene amplificata la cosa. Invece quando si tratta di diossina viene amplificata, probabilmente a volte oltre misura. Quali sono queste cose? Ce le dica, quelle che non vengono date attenzione? Ma sono una serie di contaminazioni sugli alimenti che direi sono abbastanza normali, cioè sono all'interno dei livelli di rischio che sono considerati accettabili dalla legislazione europea e dunque italiana. Ecco, ma per tornare alla diossina, cioè il livello di diossina che può provocare gravi danni fisici, esiste un livello oppure qualsiasi diciamo cibo contaminato di diossina è negativo per la nostra salute? Qualunque livello, intanto sì, ci sono livelli massimi accettabili, sono stati determinati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fissato dei limiti molto precisi di quanta diossina sia virgolette tollerabile come diciamo assunzione settimanale, che sono credo 14, se non mi ricordo male, sono 14 picogrammi per chilo di peso corporeo. Detto questo, è anche vero che la diossina si accumula durante l'intera vita, praticamente resta accumulata nel grasso degli animali e quindi anche dell'uomo ovviamente, e questo porta a considerare evidentemente con grande attenzione qualunque possibile contaminazione come quella per esempio di cui stiamo parlando adesso nella carne suina irlandese, sì. Rimanga con noi, sentiamo Mauro dalla provincia di Modena. Pronto, buongiorno. Io praticamente abito vicino a Castelnuovo, dove praticamente gli insaccati è in abbondanza. Comunque da noi i controlli si fanno sempre quando è scoppiata la bomba, perché i controlli effettivamente non esistono. Io ho degli amici che praticamente lavorano nel settore e dentro ci può andare di tutto o quasi di tutto. Quindi io preferirei che i controlli fossero molto maggiori. Poi c'è praticamente un sottobosco di lavorazioni che non sono controllate. I controlli ci sono nelle grosse industrie, però purtroppo anche i veterinari fanno quello che gli dicono. Quindi i controlli per me dovrebbero essere molto più intensificati. Grazie e buongiorno. Beh, mi sembra che il quadro che fa il nostro Mauro dalla provincia di Modena sia veramente così molto ma molto scuro. Ma sentiamo il professor Ballarini, professore emerito dell'Università di Parma, nonché presidente del comitato scientifico dell'Accademia della Cucina, che per anni si è occupato di questi problemi delle carni, nonché ha anche scritto un libro che, se ben ricordo, si chiama Mala Cucina. Buongiorno Ballarini. Buongiorno. Ballarini, cosa ne pensi di questo radioascoltatore che ha fatto questo quadro fosco del lavoro, della lavorazione della carne suina tradotta in salumi? Beh, io non sarei così pessimista. Devo dire così che il sistema di controlli esistente in Italia e soprattutto in Europa è a macchia di leopardo. Vi sono dei settori molto controllati, di quelli che sono assolutamente non controllati. Dovremmo arrivare, entro breve termine, a mio parere, a un sistema uniforme e adeguato di tutti quanti i controlli in tutta quanta il sistema alimentare. Questo è un problema. Per quanto riguarda le carni suine, certamente l'Italia ha un buon sistema, e non così tutti quanti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e quelli fuori dell'Unione Europea. Per cui è un sistema, diciamo così, ripeto, a mio parere, che è da riformare, soprattutto da uniformare nei riguardi della completa e totale sicurezza del consumatore. Bene, sentiamo Anna da Genova. Buongiorno Anna. Pronto, buongiorno. Mi dica. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Dunque, questo quantitativo di carne sappiamo che è da settembre che insomma è arrivato contaminato. Io mi chiedevo, in questo intervallo di tempo, cosa hanno fatto, come mai non è venuta a galla prima e se mai nelle nostre tavole quanta diossina può essere arrivata? Beh, mi sembra che su questo, sul discorso della diossina, il professor Caporale abbia già dato qualche elemento. Professor Caporale, ha sentito questa domanda? Sì, l'ho sentita perfettamente bene e la risposta è: non sappiamo quanta ne sia arrivata, questo deve essere chiaro, insomma. Per quanto riguarda tuttavia i ritardi, beh, insomma, questo è un problema che è collegato alla velocità, o per meglio dire, diciamolo fino in fondo, la lentezza con cui l'Irlanda ha denunciato la presenza della diossina nei suoi prodotti. Questo però non è che necessariamente sia un atto, diciamo così, criminoso, è semplicemente il fatto che probabilmente hanno individuato la presenza della diossina su controlli così normali e quando se ne sono accorti l'hanno denunciato, insomma, e infatti credo che sia proprio questo l'elemento chiaro. Io però mi permetto di dire, mi vorrei dire due cose. La prima, mi dispiace, ma non sono affatto d'accordo che in Italia non si fanno abbastanza controlli. L'Italia fa veramente una mole incredibile di controlli, magari potrebbero essere anche migliorati sul piano della razionalità, ma sul piano quantitativo credo che siamo il paese che fa il maggior numero di controlli, anche perché, va detto, noi siamo un paese che importa moltissimo le carni, bovine, suine e così via, ma esporta altrettanto prodotti di trasformazione, voglio dire prosciutti, salame e così via. E siamo dunque un paese che non solo controlla al suo interno, ma siamo probabilmente il paese che al mondo è più controllato in assoluto dai grandi paesi industriali che importano i nostri prodotti. Questo va detto, perché altrimenti diamo un quadro che non è quello giusto. Bene, grazie professor Caporale, la ringrazio e torno un secondo al professor Ballarini. Ballarini, quindi tu insisti su un discorso di omogeneizzazione, di coordinamento dei sistemi di controllo, giustamente. Esattamente, e se nel settore carne, sono d'accordo con Caporale, siamo ad altissimi livelli, non altrettanto avviene nel settore dei vegetali, e in particolare dei vegetali freschi, che possono venire da zone inquinate e noi non ce ne possiamo accorgere, per cui dobbiamo, diciamo così, equilibrare il sistema dei controlli portandolo agli alti livelli che abbiamo già proprio nel settore delle carni. Bene, io ringrazio anche il professor Ballarini. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di diossina, di carne suina irlandesi, ma anche di distributori automatici di latte crudo. Ebbene, diciamo che questi distributori sono fioriti in giro per l'Italia negli ultimi tempi in maniera anche abbastanza prosperosa. Poi alla fine è arrivato questo verdetto che c'erano stati alcuni casi, diciamo, di allarmi e praticamente si è arrivati alla chiusura e poi a una nuova riapertura con nuove disposizioni. Bene, chiedo al dottor Silvio Borello, direttore generale della sicurezza degli alimenti e nutrizioni del Ministero della Salute, come mai si è giunti alla decisione di stoppare questa distribuzione di latte crudo? Buongiorno a tutti. Noi abbiamo ricevuto dall'Istituto Superiore di Sanità alcune segnalazioni di casi che si erano verificati negli ultimi 2 anni relativamente ad una sindrome emolitica emorragica che è dovuta ad Escherichia coli, che è un batterio ubiquitario, che potevano essere in qualche modo ricollegati al consumo di latte crudo. L'Escherichia coli ha provocato nel passato, soprattutto in consumatori di carne bovina cruda, ricordiamo le grandi epidemie che ci sono state negli Stati Uniti o nella stessa Gran Bretagna, dei casi molto, molto gravi. Allora, noi sulla base di questa segnalazione abbiamo ritenuto di dover intervenire chiedendo un parere al Consiglio Superiore di Sanità circa le misure da adottare per minimizzare il rischio per i consumatori. La decisione, il parere del Consiglio che si è avuto in questi giorni ha detto che la garanzia, oltre tutte quelle garanzie che potevano essere date da una corretta gestione a livello aziendale, era quello di far bollire il latte, perché con la bollitura si ottiene la distruzione di questo germe patogeno. Sì, però dottor Borello, anzi sentiamo una radioascoltatrice che vuole intervenire su questo. Carla dalla provincia di Padova, buongiorno Carla. Buongiorno a voi. Io ho ascoltato cosa hanno appena detto, l'intervento appena fatto, sì. E la mia perplessità è la seguente: a parte che il latte crudo ha un gusto assolutamente meraviglioso e io per il momento continuo a consumarlo crudo pur avendo due ragazzi di 14 e 15 anni. La bollitura è consigliata per i ragazzi in età prescolare, ma secondo me la bollitura elimina moltissime sostanze nutritive. A questo punto mi domando qual è la validità di bere del latte crudo rispetto alla sicurezza di bere un latte pastorizzato, perché con la bollitura si forma quella specie di tela, in dialetto noi la chiamiamo panna, in realtà non è grasso perché il grasso ad alte temperature scioglie, ma sono proteine che se ne vanno. Beh, io avrei fatto la stessa domanda al dottor Borello, cioè a questo punto che senso ha cioè il latte crudo che poi viene bollito? Allora è inutile lasciare aperti questi distributori? Io la ringrazio per questa domanda. Ricordiamoci che il latte crudo è di per sé fonte di possibili rischi per il consumatore, non soltanto per il problema legato all'Escherichia coli. Ricordiamo nel passato che il latte noi eravamo abituati a bollirlo perché c'erano tante altre malattie, quali la tubercolosi, la brucellosi, che sono state oggi risanate grazie all'opera dei servizi veterinari. Allora, io mi chiedo, e quella la stessa domanda che si è posta anche a livello di Consiglio Superiore di Sanità, se il rischio di contrarre tutta una serie di malattie che possono essere trasmissibili attraverso un latte crudo non trattato termicamente possa valere la candela rispetto alla piccola perdita di taluni valori nutritivi. Bene, con l'ordinanza non si vuole togliere il piacere al consumatore di avere un latte della propria zona con una tracciabilità immediata a chilometro zero, perché questa è una delle caratteristiche che viene richiesto, però a fronte di un beneficio rispetto alla salute pubblica, forse una piccola perdita di quei nutrienti può essere accettata. Beh, sentiamo il professor Michele Corti, docente di sistemi zootecnici montani della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, cosa ne pensa? Buongiorno Michele. Buongiorno. Beh, io penso che i vantaggi del consumo del latte crudo siano estremamente più elevate rispetto ai possibili rischi. Ci sono delle indagini epidemiologiche pubblicate negli anni scorsi su campioni molto vasti di popolazione infantile che dimostrano che la riduzione di patologie come il raffreddore da fieno, le intolleranze alimentari, l'eczema nei consumatori di latte crudo c'è una fortissima riduzione dell'incidenza di questa malattia. Quando si parla di meno 30-40% di asma, si parla di un vantaggio per la salute evidente. Va anche detto che nel latte crudo ci sono diverse componenti, enzimi, peptidi che hanno una funzione protettiva di stimolo del sistema immunitario, ci sono dei fattori specifici che proteggono da forme di artrite degenerativa, ci sono delle componenti che proteggono intanto dalle stesse agenti patogeni infettivi e poi anche da altre malattie degenerative. È difficile valutare quante persone in più, quante persone grazie al consumo di latte crudo ogni anno in meno contraggono queste patologie. Si potrebbe anche fare dei calcoli teorici su quanti morti in meno per infarto, tumori o altre malattie di questo tipo. A fronte di questa forte vantaggio per la salute abbiamo pochissimi casi che a volte non sono poi accertati. Ecco, negli Stati Uniti innanzitutto va precisato che il latte pastorizzato non è assolutamente garantito al 100%, perché ci sono molti casi in cui patogeni come la listeria monocytogenes, la salmonella typhimurium e i campylobacter reinfettano il latte già pastorizzato. Bene, ti fermo perché voglio sentire, Borrello deve scappare, ci ha dato pochi minuti, voglio sentire se aveva qualcosa da aggiungere a quanto detto. No, io vorrei ricordare che anche 10 casi di bambini che hanno avuto questa sindrome sono un segnale per noi di massima attenzione. Quello che il Ministero dice: bollite il latte. Se poi il consumatore vuole correre un rischio, deve correre a suo rischio e pericolo. È come se uno vuole correre a 180 km all'ora in autostrada. Sa che corre un rischio. Non c'è un divieto, non certo. È stato posto un divieto al consumatore di bere il latte crudo. Il consumatore è informato, sulla macchinetta è riportato chiaramente che il latte deve essere consumato cotto, previa bollitura, altrimenti c'è un possibile rischio sanitario. Bene, Borrello, io la ringrazio, so che lei che è impegnato, quindi grazie e arrivederci, la saluto. E vorremmo continuare, sentiamo Maria Teresa dalla provincia di Torino. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno a lei. Io volevo intervenire a sostegno, ma non ce n'è bisogno alcuno, della teoria appunto espressa dal professore prima di me. Io ho 60 anni, abito in un piccolo paese in provincia di Torino e questi distributori di latte è già da parecchio tempo che funzionano. Però al di là di questo volevo dire il mio caso. Io ho una figlia che ha 34 anni e da neonata, poiché avevo problemi di allattamento e lei non prendeva bene quello artificiale, io l'ho tirata su da neonata con il latte della cascina e facendolo sempre bollire, perché questa è una cosa che si sa benissimo da tantissimi anni che non si deve consumare il latte crudo se non dopo facendolo bollire, per evitare appunto che ci siano dei problemi per la salute. Bene, grazie Maria Teresa di questa testimonianza. Sentiamo Sergio da Milano. Buongiorno Sergio. Buongiorno, io mi volevo riallacciare al discorso sulla diossina, sui limiti massimi e minimi assumibili dal corpo umano. Sì. Mi sta bene questo discorso sulla singola assunzione di alimento contenente diossina. Il professore si riferiva al fatto che i nostri grassi accumulano diossina nel tempo. Non dicono mai qual è il limite tollerabile della somma delle singole assunzioni di certo. diossina da parte del nostro corpo. E se c'è un esame che mi possa dire nel tempo quanta diossina ho accumulato negli anni della mia vita, perché la diossina ce l'avrò nella carne suina, c'è nella verdura, c'è in un sacco di alimenti che ci sono dei minimi e dei massimi. Il problema è sapere il mio corpo umano quanta ne può assumere in totale. Sì, questo è un problema che era già sorto quando è successo il problema mozzarella e diciamo che era rimasto sempre senza risposta, cioè nel tempo si diceva appunto che c'erano dei minimi tollerabili, però giustamente come ha detto lei, assommando tutti questi minimi nel corso di una vita, cosa può succedere con la diossina? E credo che questo sia un difficile rebus. Comunque se c'è qualcuno in ascolto che ha questa risposta, prego di intervenire 800 24 00 24 oppure 349 238 6666. Sentiamo Franco dalla provincia di Vicenza. Buongiorno, allora io ho lavorato per 20 anni per l'associazione allevatori, per cui il problema del latte fresco lo conosco abbastanza bene. Allora, secondo me c'è nei distributori che ci sono in giro anche qui nella mia provincia, non ci sono fuori le analisi del latte di quella stalla e tener conto che le stalle adesso sono sottoposte a innumerevoli controlli, poi le vacche iscritte addirittura ancora di più, 4-5 al mese, per cui sapere per il consumatore le cellule, la carica batterica di quel latte, la percentuale di grasso, la percentuale di proteine sarebbe semplicissimo e saprebbe la qualità di quel latte. Inoltre non è stato fatto l'analisi di quelli che hanno avuto il problema degli coli. Se quel latte crudo è stato usato come il latte pastorizzato, lasciato in frigo 3, 4, 5 giorni, ovviamente quel latte ti crea dei problemi se non lo bolli. Ma se lo usi entro 24 ore, se le analisi sono a posto, quel latte non crea problemi. Bene, sì, io volevo aggiungere che nell'intervento del dottor Borrello ha detto una cosa secondo me importante, ha detto probabilmente i casi che abbiamo riscontrato sono stati provocati dal latte crudo, però non è sicuramente. Bene, comunque continuiamo, sentiamo Luciano da Como, poi torniamo ad altri ospiti. Buongiorno Luciano. Sì, buongiorno. Prego. Dunque, io sono veterinario anch'io all'ASL, non posso parlare però del lavoro mio perché ormai è già stato abbondantemente illustrato anche da chi mi ha preceduto. Il discorso secondo me parlo relativamente al latte crudo ed è da inquadrare su una costanza di responsabilizzazione sia del produttore sia del consumatore. In quella della regione Lombardia si sta quotidianamente mandando avanti un discorso legato alla responsabilizzazione. Mi spiego, già da quando è stato introdotto la vendita del latte crudo, comunque i produttori intanto devono scrivere chi è il produttore sull'erogazione, no, quindi c'è un legame diretto con il produttore. E poi anche alcune norme che ancora prima di questi casi ci sono stati, che appunto non sono comunque diciamo così probabilmente appunto si tratta di latte crudo. Peraltro il fenomeno del crudismo che arriva anche da altri paesi io lo metterei all'indice, nel senso che comunque al di là del latte ma anche la carne, il pesce eccetera, noi dovremmo mangiare un pochettino all'italiana, no? Bene, grazie Luciano da Como per questo suo intervento. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare, abbiamo parlato di diossina, di suine, stiamo parlando anche di latte crudo. Bene, abbiamo sentito diverse posizioni. Sentiamo anche il dottor Forino, direttore generale della Solatte, a proposito appunto di queste nuove disposizioni che riguardano i distributori automatici. Buongiorno dottor Forino. Buongiorno a lei. Ha sentito un po' i vari interventi, non so se era in ascolto. Sì, ero in ascolto, ho sentito gli interventi e vi ringrazio per averci interpellato. Noi come associazione sono parecchi mesi che diciamo che il latte crudo può essere un'occasione di consumo saltuaria e quindi più un fatto di costume che non un fatto di consumo, perché come diceva anche chi mi ha preceduto, per lo stesso fatto di essere crudo ha in sé una componente di rischio che crediamo non si possa in qualche modo far correre ai consumatori di latte. Bene, sentiamo Assunta da Torino. Buongiorno Assunta. Buongiorno, buongiorno. Io la mia opinione è soltanto questa. Noi usiamo questo latte da circa 2 anni, siamo nella provincia di Torino, nel Canavese, non so se conosce, sì. Ce ne sono moltissimi di questi distributori, ottimo latte, e ovunque andiamo c'è scritto a chiare lettere il fatto che bisogna bollire questo latte. Quindi c'era già scritto precedentemente a questo sì, caso? Assolutamente, c'era scritto che il latte era crudo e andava bollito. Bene. La mia paura adesso è questa, che sta avendo talmente tanto successo da poter dar fastidio alle grandi marche. Ecco, questa è la mia paura, perciò va a riscontro nostro, cioè non vorrei che questo venga eliminato, questo latte crudo venga eliminato. Bene, sentiamo il professor Corti cosa ne pensa. Beh, io penso che la bollitura sia un fattore di prudenza solo per alcune categorie a rischio, persone debilitate, col sistema immunitario precario, malati di cancro, donne incinta, bambini fino a 3 anni. Per le persone sane andare a bollire il latte è veramente un qualcosa di negativo, perché perdiamo dei fattori protettivi per la salute che il calore va a danneggiare. Bene, grazie Corti, e sentiamo il dottor Forino, perché mi sembra che la radioascoltatrice di Torino abbia assunta, anzi del Canavese, abbia diciamo tirato in ballo le grandi marche. Ma guardi, le grandi marche non c'entrano nulla, dottor Paolini. Dopo tante campagne a favore del latte crudo, il latte crudo oggi rappresenta circa lo 0,3-0,4% dei consumi di latte, quindi i consumatori sanno che può essere un fenomeno di costume, un'occasione di ritrovare un sapore antico. Sono d'accordo con il professor Corti quando dice che la bollitura è un po' devastante per le caratteristiche nutrizionali e nutritive del latte. Infatti noi suggeriamo il latte pastorizzato. La pastorizzazione è stata messa a punto molti anni fa. Le pastorizzazioni che si fanno oggi nelle aziende industriali salvaguardano il latte al 99,9%, c'è una minima perdita di alcuni fattori nutritivi, ma non ci risulta che ci siano carenze proteiche o carenze vitaminiche in Italia. La pastorizzazione fu imposta per legge negli anni 20 per una garanzia del consumatore, quindi questo ritorno al passato ci sembra alquanto pericoloso. Quindi il latte crudo sì, qualche volta, sicuramente no ai bambini, sicuramente no agli adolescenti. Tutti i pediatri sono d'accordo su tutte le riviste pediatriche, si sconsiglia di dar da bere latte ai bambini. Qualunque medico igienista sconsiglia il consumo di latte crudo. Se lo si vuole fare, lo si faccia talvolta conoscendo il fornitore di latte, come si mangia la carne cruda una volta ogni tanto, non è un'occasione di consumo costante. Se abbiamo bisogno di fare la spesa, compriamo il latte pastorizzato. Se dobbiamo fare la scorta, compriamo il latte UHT. Sono latti sicuri, igienici, perfetti, garantiti al 100% e un rapporto qualità-prezzo garantiti. Sentiamo Roberto Rubino cosa ne pensa, direttore di Caseus, una rivista importante del settore. Buongiorno, io quello che penso è che secondo me credo dovremmo auspico che non si continui a parlare di latte crudo, pastorizzato, cioè che sono tecniche di utilizzazione del latte dopo la produzione. Io vorrei che il latte che io compro sia diverso, vorrei poter scegliere la qualità di quel latte. Il vero limite, la vera difficoltà attualmente del settore caseario è che il latte è come una commodity, è come il petrolio, c'è un prezzo internazionale e poi un prezzo nazionale, ma al consumatore questo interessa poco. Io vorrei scegliere la qualità del latte. Quello che mi sentirei di dire ai produttori di latte che vorrebbero venderlo crudo, piuttosto che venderlo perché è crudo, devono venderlo perché è buono, perché è diverso, non perché, cioè, se tutto il latte è uguale, tutto il latte è buono e tutto il latte è cattivo. Invece io vorrei comprare quel latte perché è diverso, e la diversità dipende, lo sappiamo, da quello che mangia l'animale. Se l'animale mangia prati polifiti e produce anche non 100 quintali ma qualcosa di meno, quel latte è sicuramente buono. Allora questa gente qui, questi produttori qui dovrebbero vendere il latte crudo, perché a quel punto o crudo o pastorizzato la differenza è minima. Quello che fa la grande differenza è quello che mangia l'animale. Fin quando continueremo a parlare di crudo e di pastorizzato, il settore sarà sempre debolissimo e a ogni stormir di fronda ci sarà una crisi tremenda. Bene, grazie Roberto Rubino. Abbiamo parlato di cosa mangia l'animale. Abbiamo in linea con noi Pierluigi Messori, direttore di produzione Progeo, quindi un'azienda che produce mangimi. E a lui, anche se è rimasto poco tempo, faccio una domanda secca. Beh, spesso quando succedono questi problemi, tipo la diossina nelle carni suine o come è successo nella mucca pazza, sul banco degli imputati sono sempre i mangimi. Ma veramente, cioè, diciamo, l'alimentazione degli animali oggi ha questi grossi pericoli un po' in tutto il mondo, dottor Messori? Buongiorno. Beh, intanto a livello latente i pericoli per forza di cose ci sono, pericoli che riguardano tanto le produzioni di alimenti a uso umano quanto la produzione di alimenti a uso zootecnico, anche perché poi gli alimenti a uso zootecnico sono quelli che a loro volta alimentano animali che producono burro, carne, latte, e quindi sono diretto andando poi ad alimentare l'uomo. Senta, questi, ma questo... pericoli ci sono. Prego. Questi pericoli, è chiaro che ci sono latenti, ci sono. Come si sta lavorando e come si lavora? Intanto questi pericoli devono essere ridotti, devono essere minimizzati. Per fare questo, per garantire che questi pericoli siano minimi, siano gestiti, occorre attivare a livello aziendale un sistema di qualità complessivo che deve coinvolgere l'azienda nel suo modo di fare. Poi è chiaro che, fermo restando il rispetto delle diverse disposizioni di legge, la produzione degli alimenti, nel caso nostro sono i mangimi, intanto richiede l'impiego di materie prime sicure e controllate. Il processo di produzione deve essere affidabile, deve essere sorvegliato, e questo si realizza tramite controlli quotidiani, ispezioni, che devono essere mantenuti nel tempo. Noi ci siamo mossi, per esempio, nel definire le nostre modalità di produzione, mi spiego meglio. Intanto lavoriamo in termini di prevenzione. Cosa significa? Significa questo: intanto le produzioni nostre sono produzioni tipo vegetale. Produrre mangimi vegetali significa intanto eliminare una serie di materie prime ritenute a rischio. Mi riferisco per esempio alle farine di carne. Le farine di carne adesso non si possono più utilizzare nei mangimi per bovini, per ruminanti, ma si possono utilizzare per altre produzioni. Significa non utilizzare grassi animali, che sono potenziali fornitori di contaminazione. Parlo per esempio delle diossine. Occorre selezionare i fornitori, le materie prime, come si selezionano? In base all'affidabilità, ma soprattutto in base ai controlli. È chiaro che le aziende stanno lavorando in termini di prevenzione. I controlli, gli autocontrolli, la sorveglianza e così via sono effettuati sulla base di protocolli scritti. Mi riferisco per esempio a uno strumento che è l'HACCP, che è un manuale di autocontrollo ormai già in essere, già utilizzato in tutte le industrie alimentari. Bene, dottor Messori, purtroppo io la devo interrompere perché chiudiamo la trasmissione. Lei ci ha dato un quadro chiaro, quindi, di controlli che devono essere effettuati, nella speranza quindi che vengano sempre effettuati questi casi di provocazione di diossina o di altro. Quindi significa deviare da questo sistema di controlli, da questo sistema di utilizzo appunto degli alimenti vegetali. Bene, grazie, io la ringrazio, ringrazio il dottor Forino, ringrazio Roberto Rubino, ringrazio chi ci ha ascoltato, e adesso continua il riposo del guerriero con Stefano Gallarini.